Leporello, dove sei? Sono qui per mia disgrazia. E voi sono qui? Chi è morto poi è il vecchio? Chi domanda dove sei il vecchio? Bravo, tu imprese leggiadre. Sforzare la figlia ed ammazzare il padre. L'ha voluto suo danno. Madonna, cosa ha voluto? Vatti, non mi seccare. Di me cosa ne vuoi, qualche cosa anche tu? Non ho nulla, signor. Non parlo più. Padre, padre, il perviglio, il soccorso, voglia. Tutto mi è sangue, vi accerò che bisogna. Ma dove è accelerato? In questo loco. Allontanate agli occhi suoi quell'oggetto d'orrore. Anima mia, consolati. Fa cuore. Fuggi, cugine, fuggi, lascia che muore anch'io. Ora che morto vivo. Mio, e senti, guarda mio sole istante, ti parla il caro amante che vive sol per me. Tu sei, perdon, mio padre, la tua mia libra. Il padre mio padre, il padre. La ricambranza amara, ma è sposo e padre in me. Ah, il padre mio padre. Lascia cara la ricambranza amara, ma è sposo e padre, hai sposo e padre in te. Lo giuro, la gioia di occhi parlamento. Procendo perché cento, ma mi dicendo il cor, procendo a me e cento. Che minate e da bricone temerario interquita giuramento. Non si parli di giuramento, fatti gli occhi. Io non parlo più, non fiato, farò mio. Così saremo amici ora di un poco. Sai tu perché son qui? Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista. Vala che sei grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama la vidi, le parlai. Meca il casino questa notte verrà. Zitto, mi pare senti odor di femmina. Cospetto, che odorare perfetto. All'aria mi pare bella. E che occhio dico? Ritiriamoci un po' che scopriamo terreno. Ha prese fuoco. Cerchiam di consolare le sue tormenti. vento, così ne consolò 1800. Lasciatemi parlare. Cosa puoi dire, donazion Ciro? In casa mi entri furtivamente, a forza d'arte, di giuramenti illusi arrivi a sedurre il convio. Mi innamori a breve, mi dichiari tua sposa, e poi, mancato delle tre del cielo, sento dritto, con enorme delitto la burbos, intridi da lontani, m'abbandoni, mi fuggi, e lasci in preda al rimorso l'ero e pianto, ripena forse che t'hai codanto. Paro il libro stampato. In quanto quello ebbi le mie ragioni, è vero. È vero, e che ragioni forti? E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle ch'io ti trovassi per farle sulle le mie vendette. E via, siate più ragionevole. Mi coraggimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo. Ossa, voi vero? Vedi, dille un poco. E cosa devo dirle? Sì, dille pur tutto. Ben fa presto. Madama, veramente, in questo mondo non ciò sia cosa quanto potete. Il quadro non è tondo. Sciaguruto! Così debile d'amor gioco ti prendi, a voi, stelle, il tuo fucile miserabile dove, in quel verde. E lasciate che vada in onmerta che di lui ci pensiate. Il scellerato, m'ingannò, metti! E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete. Nella prima, nell'ultima, guardate, questo non picciol libro è tutto pieno di nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese, e testimon di sue donne schenchese. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che mo' il padron mio, un catalogo i miei che ho fatto io. Osservate, leggete com'è, osservate, leggete com'è. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, Turchia, 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003, non fra queste contadine, cameriere cittadine, contesse e baronesse, marchesane, principesse, viva donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, in Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, mille tre. Andrò per sei contadine, cameriere, cittadine, alcontesse, baronesse, marchesane, e la donna e donna in palo, donna in palo, donna in palo, donna in forma, donna in età, donna in forma, donna in età. Nella bionda e gli usanza di loda gentilezza della luna, la costanza nella bianca, la dolcezza. Odierno l'acqua sotta vuol d'estate la macrotta, e la grande maestosa, e la grande maestosa. La piccina, e ogni orrezzosa, e ogni orrezzosa, e ogni orrezzosa delle vecchie fa conquista. Dominante è la giovane principiante, non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella. Voi sapete quel che fa. leggeri di testa, leggeri di testa, con andate girando di qua e là e là e qua e là. O cottura dei matti la festa, dei matti la festa, ma per me cominciato non ha, cominciato non ha. Che piacer che sarà. Vieni carina, godiamo, e cantiamo, balliamo, sogniamo. Vieni, vieni carina, godiamo, che piacer che sarà. Che piacer che piacer che sarà. Quanto male, partita! Oh, guarda! Guarda che bella gioventù! Che bella! Trattante per mia fede, vi sarà qualche cosa anche per me! Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a cantare, oh brava gente! C'è qualche sposalizio? Sì, signore, è la sposa, sono io! Me ne consolo, lo sposo? Io per servirla! Oh, bravo, per servirmi, questo è vero parlare da galantuomo! Basta che sia marito! Oh, il mio masetto è un mondo, te ne ho cuore! Oh, anch'io avrete, e voglio che siamo amici, il vostro nome? Sellina! E tuo masetto? Oh, caro il mio masetto! Cara la mia zerlina, esibisco la mia protezione. Le parlo! Cosa fai di divone? Anch'io, caro prone, esibisco la mia protezione. Presto va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, presciutti. Cerca di verti, tutti mascherò il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto. Hai capito? Ho capito. Andiamo, signore. Cosa c'è? La zerlina senza me non può star. Il vostro loco ci sarà, sua eccellenza, e saprà bene fare le vostre parti. Oh, la zerlina è in mano un cavaliere. Va pure, fra poco il lameco verrà. Va, non temere, nelle mani sono io un cavaliere. E per questo? E per questo? Ci da dove dor? Ed io cospetto! Ho la fine alle dispute! Se subito senz'altro replicare non te ne vai, ma se tu guarda ben, ti pentirai! Ho capito! Signor sì! Signor sì! Io in capo e me ne vo, già che piace voi così, altre repliche non vo, no, no, no, no, no, no, no, no. Cavalier, voi siete già, dubita d'arco sua fe, me lo dice la bontà, che voi metti a per me. Ricanaccio, malandrina, vostra signora mia rovina, vostra signora mia rovina. Vengo, vengo. Resta, resta, è una cosa molto onesta. Ma c'è il nostro cavaliere, cavaliero ancora te, cavaliero ancora te. Piconaccia, malandrina, tu signor la mia ruina, tu signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliero ancora te, cavaliero ancora te, faccia il nostro cavaliere, cavaliero ancora te, faccia il nostro cavaliere, cavaliero ancora te, cavaliero ancora te, cavaliero ancora te. Zerlinetta gentil, da quel scioccone, che ne dite mio ben, so far pulito. Signor, è mio marito! Chi colui? Vi par che non è suomo, un nobile cavaliere, qual io mi vanto. Possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, d'un biforcaggio vile sia strapazzato. Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo. Dal parola non vale un zero, voi non siete fatta per essere paesana. un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli, quelle dituccia candida d'adose. Or mi toccare giuncata e fiutar rose. Oh, non vorrei! Che non vorresse? Alla fine, ingannata restar! Io so che è raro con le donne voi altri cavalieri! Siete onesti e sinceri! E all'imposture della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà! Forse non perdiamo tempo, in questo istante io ti voglio sposare! Oh, voi? Certo io! Quel casinetto è mio, soli saremo, e la gioiello mio ci sposeremo. Là ci darem la mano, là mi dirai di sì. Vedi, non è lontano, partiam ben mio da la povera infelice di me innamorata.

pazzella! È pazzella! Giunti qui è un volo di due! Infelice! Si raduna, noi d'intorno siate un poco più prudente, vi farete criticare. Sperano scellerato, ho perduto la prudenza, lieto copia del mio stato, voglio proprio palesar, voglio proprio palesar. Piacenti, si sa me, si ho perduto la prudenza, per cangiare, per cangiare. Faccio un precipizio. Perdonate, bellissima donna Anna, se servirvi possio. In mia casa v'aspetto. Amici, addio. come mai crede deggio di sì nero delitto capace in cavaliere? A di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi, io sento in petto e di sposo ed amico il dover che mi parla di s'ingannarla voglio e vendicarla. Dalla sua pace lo mia dipende quel chiare piace vita mi rende quel che le cresce morte mi dà sospira, sospiro anch'io, è mia quel lira, quel pianto è mio, e non ha bene, se la non lo giorno di patto per sempre abbandonare questo bel mazzaro. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene. bene, bello mio, va tutto bene. Don Giovannino mio, va tutto male. Come va tutto male? Vado a casa come ordinaste con tutta quella gente. Bravo! A forza di chiacchiere, di vezzi, di bugie, cui parlato sì bene a star con voi, cerco di intratenermi. Bravo! Dico mille cose, ma sento per placarlo, per trarli dal pensiero la gelosia. Bravo, in coscienza mia! Faccio che bevono. E gli uomini e le donne son già mezzo ubriachi, altri canti, altri scherzi, altri segui da ver. Insulti il bello, chi credete che capiti? Zerlina. Bravo! E con lei che viene? Don Albina. Bravo! E disse di voi? Tutto quel mal che in bocca le venia. Bravo, bravo, coscienza mia. E tu cosa facesti? Tacqui! E bella? Segui a gridar. E tu? Quando mi parve che ce fosse soldata, dolcemente fuori rotola trassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai e sulla mia soletta la lasciai. Bravo, bravo, arici, bravo, la fanno un po' andar meglio. Incominciassi, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte. Calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, per poco quella cercamela, per poco quella cercamela, cercamela e cercamela. Senza alcuna divella la fantasia, il minuetto, la follia, la remanda, fare ballare qui il minuetto, fare ballare qui la follia, fare ballare la remanda, fare ballare. E dietro tanto dalla tua con questa quella pomareggia, pomareggia, pomareggia. Una decina le paventare, paramarista, una decina le paventare, se non in piazza qualche ragazza, mi vengo quella del camerà. Paramarista, oh mamma mia, una decina le paventare, senza alcuna della fantasia, il minuetto, fino a follia, fino alla banda, vai in ballo. Paramarista, oh mamma mia, una decina le paventare, una decina le paventare, una decina le mi chiedi, perfida, il fato sopportar dovrei d'una mano infedele. Ma no, taci, crudele, ero offerto da te tal trattamento. Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte in vilano d'onore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei... Ma sei colpa e no, ma sei da lui ingannata, rimasi. E poi che temi? Tranquillati, mia vita, non mi toccò la banda della vita. Non me lo credi, ingrato. Vien qui, sfogati, ammazzami, ma tutto di me quel che ti piace. Ma poi, masetto mio, Come seppe questa strega se durmi, siamo pure i deboli di testa. Ah, Masetto, ho della voce del monsieur cavaliero. E ben che c'è? Verrà. Lascia che venga. Ah, se vi fosse un buco da fuggir. Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, piconcella, e timor che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, prima venga, formi vo da qualche lato. C'è una nidia qui c'è rato, e dopo mi costa. Senti, dove vai? Ah, non t'ascondevo, ma se tu che ti trovo a poveretto. Non sai quel che può far poveretto, tu non sai quel che può far. Faccia dica quel che vuole. Alla forte qui t'arresta! Che capriccio ha nella testa! Alla forte qui t'arresta! Avivo, se mi vedere, a prodiri, oggi vuol, precipitor! Avivo, all'ignodo, se mi vedere, e mal modo, all'ignodo, oggi vuol, precipitor! Fate cuore, suonatorio, dite, venite ormai con me. Sì, sì, facciamo cuore. Sì, sì, facciamo cuore. E verrà ormai con me. Verrà, verrà ormai con me. Dice bene, coraggio a me conviene, dispaccio a vita mia, l'affanno e il timor. che da Valpè sono le pazze, e tu direte a scherzare, a ballare, a scherzare, a ballare. E il caffè, cioccolata, mazzolino, giudizio, sorbetti, colpiti, mazzolino, giudizio. Troppo dolce comincia la scena, innamoro potia terminarsi, innamoro potia terminarsi. Se non vaga brillante c'è via, la piccola fa festa, c'è quella giornata sanrina, tocca porti di qua la testa. Quel vaso come va smalunato, brutto, brutto, si cazzo. Quel vaso come va smalunato, la piccola fa festa, c'è bella, tocca a porti di fare la testa. Tutti quanti, viva la libertà! Sono pronti a tante miserie di generosità, di generosità! Aperta tutti, siamo pronti a tante miserie di generosità! Mazzolino! fate? Voi di cosa fate? Voi di cosa fate? Noi sperati, noi sperate! L'empio crede con la fede! Vedi, volta frode, io sono l'entità! Donna Elia! Sì, ma giù!